Lay, lei non è, non è per te. Mi dicevano, mi diceva no, così. Ma da te volevo un mondo nuovo. E io, amore, io non ascoltavo mai. Non è per te. Com'è facile, com'è facile da dire. Ma con te, oh yeah, ascoltavo mai. Tu non sei, no, non sei, non sei per me. E lo sai, lo sai, lo sai che anch'io piangerò.